l'orologio che il nonnino mette sempre nel taschino e fa tic-tac. Tic-tac! Mentre Gallo poverino è già sveglio da un pochino e fa chicchi. Chicchiricchi! Invece l'auto di papà, quando è accesa come fa? Fa brum brum. Brum brum! Mamma bussa alla porta con la mia fetta di torta e fa toc toc. Toc toc! Reloj! Tic tac! Tic tac! Gaggio! Kikiriki! Kikiriki! Auto! Brum brum! Brum brum! Bujar! Tac toc! Tac toc! Reloj! Tic-tac, tic-tac, gallo, kikiriki, kikiriki, auto, brum brum, brum brum, bujar, tac-toc, tac-toc. La domenica mattina la campana della chiesa fa ding dong. Ding dong! Senti, passa il mio trenino, tu indovina come fa? Fa ciuf ciuf. Ciuf ciuf! E se sento un applauso, batto forte le manine, fan clap clap. Clap clap! Quando batto sul tamburo mi diverto di sicuro a far boom boom. Boom boom! Campana! Ding dong! Ding dong! E il tren! Ciuf ciuf! Ciuf ciuf! Applaudir! Clap clap! Clap clap! Tambor! Boom boom! Boom boom! Campana! Ding dong, ding dong. El tren. Chuf, chuf. Chuf, chuf. Aplaudir. Clap, clap. Clap, clap. Tambor. Bop, bop.